fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. 1:42 del mattino, questo è sabato 27 di ottobre del 2018 e qui a Risto Radio Convento, come sapete, per raccontarsi, per raccontare, questo è il nostro motto e sta diventando un po' una sorta di appuntamento settimanale, quasi immancabile, come andare a fare la spesa, come una cosa che senza la quale ti senti un po' diverso e anche un po' più vuoto. È il nostro, chiamiamolo, punto della settimana, la nostra chiacchiera del sabato sera con la nostra amica Grace. Ciao, che ormai ciao a tutti. Affezionatissima, e con la sua amica silente Cristina. Ciao. Cristina, oh, incredibile, sta piano piano acquisendo anche lei sicurezza. Piano piano, perché le prime 2-3 settimane è stata solo molto attenta, ma osservatrice molto attenta. Vedi che piano piano si sta sciogliendo. Sarà forse la presenza del terzo uomo lì vicino che le dà sicurezza e che le dà gioia? Buonasera a tutti, penso proprio di sì, perché... Dici? Dopo guarda che te l'ho servita su un piatto d'argento questa. Dal 74 che non ci vediamo e questa sera è stata un'occasione fantastica per rivedervi. Dal 74 addirittura? Sì. E come mai avete scelto questa sera invece per rivedervi? Ne è stata una litigata bella lunga? No, eh? No, ma che no? Ma va, no, è una battuta. Siamo amici da una vita, adesso scherzi a parte, è una bellissima occasione. Noi siamo amici dal 93. 93. Ah, ok, ok. Ma amici con la maiuscola. Mi ha fatto scoprire il convento che io non conoscevo. Beh, vedi, una buona occasione per tornarci. Manca il tuo nome, scusa? Giovanni, tu sei anche tu della zona? Sì, sì. Quindi avrai modo e occasione nelle prossime settimane magari di fare un giro. Assolutamente, devo fare i complimenti a questa struttura e soprattutto all'accoglienza. Bene, bene. Beh, sappi che era tutto molto molto triste fin quando loro due, Grace e Cristina, hanno varcato la soglia del locale e tutto ed esplosa la festa. No, ma tu come loro, sei carino. Loro portano colore e luce. E scompiglio. Bravo, mi piace questo scompiglio, mi piace non, questo scompiglio. Visto che... Ci sono degli occhi che sbarbellano in giro perché quando le vedono passare comincia. Ti ricordi il commissario Clouseau? Sì, certo. La parte rosa, ecco. Certo. La stessa cosa, più o meno. Sì, diciamo, è un po' esatto, anche un po' per andare su citazioni un po' più alte, tipo Mosè quando apriva le acque, loro aprono quando aprono il passaggio. Noi apriamo le strade. Sì, aprono le strade. Te la cantano e poi ti suonano. Alla esatto. Fine. Aprono le strade, ma non sono di Roma, perché altrimenti Roma sarebbe in condizioni molto migliori e non avrebbe tutte le buche. Potrebbe essere una soluzione, però, che per sistemarle voi passate e sistemano tutto. No, beh, voi date modo di aprire e poi dietro arriva la insomma, adesso non so che sistemi, le turbine o quelli che sono, e track ci danno di chiudono le buche, insomma, e così via. Allora, ragazzi, intanto come va? Bene. Come è stata la settimana? Tranquilla. Tranquilla. Lavorativa, sì. Attenzione, perché però è una settimana antipasto, come piace chiamarla noi, perché la prossima è una gran settimana di festa. Esatto. Lo sarà qui al convento, ma più o meno in tutto... Ci sarà la grande festa di Alfa. Però più o meno in tutto il mondo, immaginiamo. Cosa ti vesti tu? Non lo so. Non è ancora. Io sono, sì, quello delle ultime occasioni. Ho già deciso. E dici, puoi svelare? Sarò una grande streghetta. Ah, un grande classico che però intramontabile, ma verrete qui a trovarci o? Io lavoro. Ah, ok, quindi streghetta in, come dire, streghetta operativa. Sì, operativa. Ok, okay, bene. E poi Cristina, tu da cosa ti vestirai? Non lo sai ancora. Cristina è già perfetta così. E beh, però sai che per Halloween si tende a mascherarsi o comunque... Ma lei anche è, a diventare qualcun altro. Ma io sarò una streghina sexy, eh. Ah, però, già, insomma, già siamo interessati alla cosa. Sì. E invece il nostro uomo? Ma io mi vesto da me stesso, purtroppo tutti i giorni sono me stesso, è un casino. A volte bisogna fingere, bisognerebbe essere un po' diversi. Però stasera sono gioioso e felice di aver rivisto Grace e poi aver conosciuto questa. Poi stasera gli ho presentato la mia amica. Fantastico. Infatti, stasera, quando ci siamo sentiti per telefono, gli ho detto: Cristina, guarda, stasera ti presento una gran gnocca. Uh-huh. Rimarrai stupito, in effetti, folgorato. Ah, e si è presentata lei stessa, no? No. Ah, no. Ok. No, però sai che la vita è fatta di incontri, no? Certo. Un paio di viaggio, stasera è un viaggio bellissimo. Eh sì. Più del solito. Sì, assolutamente. Perché sì. Perché sai, per lavoro a volte si mangiano momenti duri, però poi, se... ci si accompagna. Guarda che sì, ci sono un sacco di ragazzi che mandano i baci, hai visto che fanno partire lì? Certo, ma è per quello che noi le usiamo sempre come viatico per fare esplodere la serata. No, bravo. In senso, in senso quando vedono buono. Passare loro danno il bromuro addirittura. Sì. Poi giustamente tu dicevi un viaggio fantastico, poi nel momento in cui ti viene l'angolino fai una pausa, prendi un rustichella e il viaggio è ancora migliore, perché si sa che il rustichella è il panino tipico del che ti chiude il buco, insomma, che ti chiude il buchino. E anche perché all'1.49, dopo aver cenato alle 8, comincia a farsi sentire tu una certa sapere, fame. Poi, scusa se ti interrompo, ma stasera è stata una cosa epocale, perché abbiamo passato dal dolce, siamo passati dal dolce al salato, alla coppa, alla mortadella. Davvero, a cena? Sì. Ma sai, ti magari non una roba incredibile stanotte. Magari non ti stupirò, perché lo sai, ma sai che si sta prendendo piede, soprattutto nelle grandi città, vedi Milano, si chiama menù al contrario, in cui tu vai a cena e parti dal dolce e finisci con l'antipasto. No, è vero, è un evento che sta prendendo piede, più che un evento, un modo, un format, chiamiamolo così, che soprattutto sta andando nelle grandi città e non si sa perché. Stanno ovviamente menù abbastanza ricercato, nel senso che ovviamente il dolce va alla fine, perché le papille gustative, insomma i componenti del dolce, fanno sì che sia giusto che sia mangiato dopo tutto. Per cui non è il solito dolce, ma è un dolce, sarà un dolce particolare. Sì, però cerco di spiegartela. Un dolce che fa sì di non rovinarti quello che arriva dopo. Cioè che non ti rovini il gusto di quello che arriva dopo. Perché sennò, se non c'era Cristina non avremmo fatto questa combinazione, perché noi stavamo mangiando una torta fantastica che abbiamo acquisito per sbaglio. E improvvisamente è arrivata Cristina e dice: ma scusate, io non ho voglia di dolce, voglio il salato. Perfetto. E perfetto. Quindi in automatico è arrivato un bel vassoio. Allora, di se l'avessi detto io, mi arrivavano quattro schiaffoni. Solo che loro, con la loro bellezza travolgente, questo fascino che a volte ti. Sanno far cambiare i piani. Cambiano i piani. Sono arrivati due cuochi, poi lo chef, e a un certo punto uno è uscito con un piatto di portata con su 50 tipi di guarda di che affettato. Le grandi idee nascono dal nulla. Nascono dal nulla. E poi c'è sempre anche quella grande lotta della colazione salata, colazione dolce in Italia, che è una lotta che ancora non ha eguali e non ha vincitori né vinti. Voi cosa preferite, ad esempio? Vincitori e vinti. Non ha vincitori né vinti. Ah, non ha vincitori né no, vinti. No, dicevo, voi tra salato e dolce siete per? Io sono per il salato, ma anche dolce. Però più salato che dolce. Più salato, quindi tendenzialmente salato. Bene. In questo momento mangerei anche una bella carbonara. Siccome siamo in un posto di musica, ma non. Adesso è chimica, adesso è chimica, non è più. No. Perché tu non sai la carbonara che cucino. Anzi, dovresti chiedere alla mia amica Cristina. Sì. Ieri sera abbiamo fatto la lasagnata, così chiamiamo. Bella la lasagnata. A casa mia. Bella la lasagnata. Ho fatto una bella bacinella di lasagna. Sì, di solito si va di teglie, tu addirittura una direttamente teglia, alla bacinella. Così, una teglia grande così. Ma mezza l'ho mangiata io. Mezza l'ha mangiata lei. Beh, come è giusto che sia. Poi mi dice: mamma, guarda, mi è cresciuta la pancia. Ma dove la pancia? Vedere. Non ce l'hai. Ma però era piena come un muretto. Scusate, ma verrò invitato io. Certo che verrà invitato. Vabbè, tu già hai mangiato anche un mio coniglietto. Nel 64. Ho cucinato un coniglio ubriaco, si chiama. Ah sì, fantastico. È fatto solo col vino bianco e vino rosso. Non c'era più niente in quella pentola, ti ricordi? Che anno era? È passato un po'. Nel 10 anni fa? Sì, 10 anni fa. Sono venuti i peli bianchi a quel coniglio lì ormai, da quanto è passato. Sì, anche forse, no, più di 10 anni. Comunque io ho saputo che Caterina è una cuoca pazzesca. Chi è Caterina? Chi è Caterina? Qui. Si chiama stavi dando. Ah, ok, no, perché stava dando delle informazioni che mi mancavano. Volevo le cose nuove. Un po' di movimento. Giusto, un po' di dubbio. Ma è giusto. È giusto insinuare il dubbio nelle certezze della vita di una persona. No, perché per creare l'attenzione nei confronti della donna devi sbagliare il nome. Allora lì c'è la reazione. Sì. Da oggi in poi sbaglierò tutti i nomi. Ma non è una tattica. Cioè, è anche per vedere appunto il livello di attenzione. Cioè, se ci sta ascoltando, se è lì fisicamente, se è presente, oppure se sta vagando con la testa. E se sta vagando vuol dire che ciao, ti devi invece, arrendere. Mi sa che era presente, no? Era presente. Vero che era presente? Sì, ha risposto. Sa che è proprio qua dentro. No, ha risposto all'input. Comunque, Cristina, io vorrei sapere una cosa, visto che... Noi, Gary, se vuoi possiamo andare a, boh, a parlare di là, perché non serviamo a nulla qui dentro praticamente. Siamo solo un peso. Ti lasciamo la diretta, esatto, loro due. E... Esatto, noi siamo, no, un peso. Ha fatto una richiesta, vorrebbe sentire una canzone. No, vorrebbe sentire. Sì, vuole sentire una, vuole canzone, sentire una sua canzone. Ah, abbiamo... Una sua. Una sua canzone. Se vai su YouTube. Se vai su YouTube. Ma tu le scrivi o le canti? Le scrivi e poi le canti. Allora, se vuoi essere un vero uomo, perché devi non fare il vero. Abbiamo detto il suo uomo. Nome vero, non lo diciamo, no, naturalmente. No, però dicevo, se vuoi essere. Le sue canzoni, se vuoi essere un vero uomo e fare il vero uomo, hai un microfono e gliela dedichi adesso. Vai. Allora, dedichiamo a queste due bellissime ragazze, perché stasera è una serata speciale, tutto sembra possibile. Vai. Io già la conosco. Ma dov'è? Faccela sentire tu. No, ma non possiamo metterla su. Vai, faccela sentire. Sei qua. Più bello di farla dal vivo. Poi... Ma no, ma non l'ho mai fatto. Dai, ma canticchia. Fatto Radio DJ. Canticchia. Ce l'hai qui. Ma guarda gli occhi di Cristina, vedrai che così. L'ispirazione ti vede. Intonala così. Allora. A cappella, che tu sembra. A cappella, no, insomma. Ma no, a parte gli scherzi, io te la intono, non è un problema. Vai. Allora. Facci sentire. Allora, tutto sembra possibile, oh, tutto sembra possibile, imperdibile, se resti accanto a me. Tutto sembra possibile, imperdibile, infallibile, tutto sembra possibile, se resti accanto a me. Attimi di gioia, attimi di storia, attimi di nulla, attimi di gioia. Atti di dolore in cui non servono parole, attimi d'amore. Tutto è distante, cosa c'è di leggero, per chi ascolta bugie per davvero. In questo mondo così bello ma così instabile, nessuno mai è infallibile, nessuno mai deve dividere. Decidere di quale colore siamo noi, quando apri la finestra di mattina. Nulla sembra più vero quando sconti in silenzio il rintocco di una campana. Se un'emozione ti scivola sulla schiena, cosa rimane davvero? Tutto sembra possibile, oh, tutto sembra possibile. Abbastanza. Hai visto? Sembra scritta apposta per Cristina. Bravo. Fatta apposta, bravo, bravo. Bene, grazie. Ma chi è che ci sente? Ci sente qualcuno o è una cosa? Ci può sentire chiunque, ma nessuno, siamo in web? Tutti. Siamo in web, assolutamente sì. Però da domani avrete la possibilità di riascoltarvi, no, e lo potranno fare tutti, anche potenzialmente in tutto il mondo. Quindi fondamentalmente hai appena dichiarato all'universo il tuo amore incondizionato e folle per Cristina. Ma è normale, è un momento che ci ha toccati tutti, quello dell'amore folle per Cristina. E quindi benvenuto nel club. Ma perché questo qui è un club di innamorati? Anche. Può essere tante cose. Non è solo. No, il convento. No, no. È comunque un posto bellissimo, perché comunque nascono tanti amori. Sì, assolutamente. Perché è un posto familiare. Noi siamo qui per questo. Di accoglienza. È bellissimo. Noi siamo qui per questo. Vi aspettiamo per tutti, regalare emozioni. Secondo me il DJ non ci sopporta più. No, più che altro è che abbiamo dei tempi da rispettare. E quindi vi ringrazio intanto. No, vi do l'appuntamento alle prossime volte, grazie al nostro artista. Anche perché adesso Cristina dovrà ricambiare con questa bellissima dedica, esprimendo a sua volta il suo amore. Dai, e quindi no, ma lei lo fa in privato, per quello che ti do ma modo. Privato, ti do là. Ma guarda che siamo amici. Ti do là. Grazie mille ragazzi, grazie. Al prossimo appuntamento. Grazie a tutti voi e buona serata, mi raccomando. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Vi aspettiamo tutti al convento. E mi raccomando, se non sapete come passare la serata, Grissini e torta è il metodo migliore. Ciao! Ciao!